Entro la fine del 1864, dopo quasi 3 anni a palazzo, Anna decise che era arrivato il momento di chiedere al re quell'aumento di stipendio che le aveva promesso quando il lavoro fosse aumentato. Non c'era dubbio che il suo lavoro fosse raddoppiato e anche triplicato. Di giorno era occupata con la scuola e alla sera traduceva fino alle 10, e nemmeno questo le evitava di venire chiamata nel cuore della notte. I suoi allievi mostravano segni di progresso e il re le aveva espresso spesso la sua soddisfazione. Mantenere Avis a scuola in Inghilterra costava 60 sterline all'anno e vivere a Bangkok non era economico. C'erano i servi da pagare, il cibo e gli abiti per lui, se per lei, da comprare, e c'erano i disperati che venivano sempre più numerosi da aiutare. Ma quando sottopose al re la questione dello stipendio, sicura che fosse soltanto necessario ricordarglielo, si stupì di venire apostrofata con rabbia. Le disse che non aveva dato soddisfazione e aggiunse che era difficile e intrattabile, più preoccupata di quello che era giusto e sbagliato che di obbedire e di essere sottomessa. E per quanto riguarda lo stipendio, continuò, perché dovrebbe essere povera? Viene da me ogni giorno con qualche richiesta, con qualche torto da appianare, e mi chiede: Vostra Maestà può gentilmente investigare e riparare l'errore. Io le ho sempre dato soddisfazione perché lei è importante per me, per le traduzioni e così via, e adesso dichiara che deve avere un aumento di stipendio? Deve avere proprio tutto a questo mondo, perché non si fa pagare da loro? Se io soddisfo le sue richieste per i poveri, dovrebbe essere ricca, altrimenti significa che non è saggia. Questo chiuse la discussione. Ma la cosa che sorprese di più Anna fu che il re si aspettava che lei si facesse pagare per l'aiuto che dava. La consolava in parte il pensiero che la sua influenza era aumentata al punto che anche le donne e i bambini dell'interno guardavano a lei per essere aiutati. Molte, vedendo che non aveva paura di opporsi al re, immaginavano che avesse poteri sovrumani, perciò non solo i poveri, ma anche le signore d'alto rango dell'harem andavano in segreto da lei con i loro problemi. Senza volerlo si trovò tra l'oppressore e l'oppresso. A volte mandava boia dai giudici con i suoi clienti, altre volte andava di persona. Boia era entrato nelle grazie del re. Aveva scritto a Davis: Il re mi piace, mi ha dato una foglia d'oro per te e ti mando con tutto il mio affetto. Anna dovette ammettere che la giustizia non veniva garantita per motivi morali, ma per paura della sua influenza sul re o per la popolarità di Boy. Quando tra le sue conoscenze siamesi ed europee cominciò a circolare la voce che stava mucchiando una fortuna, fu più di quanto potesse sopportare. Tuttavia era troppo orgogliosa per difendersi. Non aveva abbastanza esperienza per sapere che era il solito sospetto degli egoisti nei confronti di quei pochi che aiutavano i loro simili o che cercavano di riformare vecchi mali accettati. Inoltre, un esame attento dei suoi motivi l'aveva convinta che forse c'era una ragione per cui la gente pensava che i suoi aiuti non fossero disinteressati. In un certo senso non lo erano. Provava un tale dolore al vedere la gente che soffriva che a spingerla all'azione non era soltanto l'amore per quei disperati, ma anche il bisogno di lenire il proprio dispiacere. Era come l'ingiusto magistrato della Bibbia, pensava, che vendicava i torti della vedova insistente perché continuando a venire mi esaurisce. Anche tra i suoi allievi c'era sempre qualcuno che aveva bisogno di un aiuto speciale. Una era una piccola principessa, bella quanto Fa Ying. Non era tra i figli del re che le erano stati portati quando la scuola era iniziata nel 1862. Era arrivata più di un anno dopo, accompagnata da una schiava, ed era entrata nella scuola timidamente, come se si fosse aspettata di essere sgridata. Anna aveva visto una bambina dai lineamenti delicati di circa 6 anni, con grandi occhi dolci che guardavano imploranti fra folte ciglia. La voce bassa e i modi dimessi non erano naturali in una bambina e suggerivano un'esperienza precoce di dolore e di durezza. Aveva un nome affascinante, Wani Ratana Kania, che significava fanciulla dalle parole preziose. Suscitò subito l'interesse di Anna con la sua timida amabilità e con la sua pazienza e fece ogni sforzo per guadagnarsi la sua fiducia. Wani sorrideva ansiosamente all'insegnante, ma manteneva un'aria di riserbo. Comunque veniva a scuola regolarmente. Anna si diede molto da fare per incoraggiarla, finché un giorno Lady Tiang, la prima moglie, prese Anna in disparte molto preoccupata. La pregò di mostrarsi meno aperta. Di certo, disse con tono drammatico, non vuole mettere quell'agnellino ferito in guai più grossi, vero? Naturalmente no, esclamò Anna allarmata. Voglio solo aiutarla. Sembra così disperata. Cercò di scoprire la ragione dell'avvertimento di Lady Tiang, ma né lei né le altre donne dell'harem con cui era intima vollero dirle di più. L'espressione sul viso di Wani le ricordava quella di Lady Song Clean all'epoca della loro conoscenza. Comunque, in seguito cercò di evitare in classe ogni impressione di favoritismo, ma non poteva rinunciare a incoraggiare la principessina, quindi trasferì le sue attenzioni a casa della bambina. Il primo pomeriggio in cui Anna vi si recò, Wani era seduta su un tappeto sotto un albero di tamarindo e stava studiando. Sorpresa e compiaciuta di vedere la sua insegnante, diede un colpetto sul tappeto. Ehi, insegnante, siediti vicino a me. Anna rimase un'ora e Wani ben presto abbandonò la sua timidezza e si mise a chiacchierare come una bambina normale. Le piacevano gli animali e aveva diversi gatti, conigli e scoiattoli. Dei passeri avevano fatto il nido nelle grondaie di casa e negli alberi del giardino c'erano pappagalli e passeri di Giava. Volavano in casa come in giardino perché nessuno li spaventava. Wani le indicò il nido di un usignolo in un bell'albero di acacia in mezzo al giardino. L'uccello tornava tutti gli anni in quell'albero ed era così addomesticato che saltava sulla soglia per chiedere i vermi che cadevano dai gelsi. Wani coglieva i vermi morti e l'usignolo li prendeva dalle sue mani, li portava ai piccoli nel nido e tornava a chiederne altri. Dopo quel giorno, Anna tornò spesso a trovare la bambina. Sperava di incontrare durante una delle sue visite la madre della principessa, ma non accadde mai. C'era sempre qualche schiava intorno, ma nessun altro, e Wani non parlava mai della madre, anche se Anna sapeva che Kun Chom Kaeo era ancora viva. Quando chiedeva, le schiave rispondevano vagamente che era via. Sembrava che Wani non avesse amici se non i suoi animali. Tra loro esisteva una specie di magia. La sua governante le aveva portato una colomba addomesticata che saliva sulla sua spalla e beccava dalla sua mano aperta. A volte l'uccello le metteva il becco vicino alla bocca, come se volesse consolarla. Nonostante l'abisso che separava Wani dalla vita privilegiata degli altri figli del re, non era né sottile né pallida e quando era a casa sembrava felice. Mentre la maggior parte dei figli del re possedevano molti schiavi, Wani non ne aveva più di 5 o 6. Una di loro, Mai Noi, che aveva circa 25 anni, trattava la bambina come se fosse sua. La portava in braccio a scuola e la riportava a casa. Le dava da mangiare, le faceva vento mentre riposava, le faceva il bagno e la profumava ogni sera e poi la cullava finché si addormentava. Il volto di Wani si illuminava al suono dei passi di Mai e Noi, i grandi occhi brillavano e sulle guance il colore compariva per l'eccitazione. La schiava studiava con la bambina, seduta ai suoi piedi alla piccola scrivania. A volte, quando Mai e Noi non poteva andare, Wani la sera le insegnava quello che aveva imparato a scuola durante il giorno. Anna fu sorpresa quando scoprì che la schiava procedeva di pari passo e leggeva e traduceva come la sua padroncina. Era evidente che Mai Noi e le altre schiave si davano da fare per tenere Wani lontana dal re. Sembrava che non fosse gradita al reale padre, anche se la bambina non ne sembrava cosciente e lo adorava di un amore senza riserve. Raccontava sempre ad Anna di come suo padre sarebbe stato compiaciuto dei suoi progressi nell'inglese. Anna vedeva la speranza negli occhi della principessina e si meravigliava della fiducia dei bambini che possono essere ingannati con tanta facilità. Non sapeva con quali parole preparare la bambina all'inevitabile delusione. La storia di Wani era abbastanza semplice. Era l'unica figlia di Kun Chom Kaeo, che un tempo era stata la preferita del re. La concubina era caduta in disgrazia perché aveva il vizio del gioco. Quando il re scoprì che aveva sperperato tutto il patrimonio della figlia, a parte una dozzina di schiave, la fece gettare in prigione. Wani fu coinvolta nella decadenza della madre. Il re non sembrava nutrire pena per lei, solo una profonda avversione. L'offesa della madre gli aveva reso sgradita la figlia. Quando infine la mamma di Wani fu liberata, un giorno Anna andò a trovarla. Era una donna infelice che conservava le tracce della passata bellezza, la stessa che rendeva così piacevole la figlia. Il pomeriggio seguente Wani si presentò all'udienza pomeridiana con gli altri bambini. Forse Mainoi aveva allentato la vigilanza, forse aveva avuto il permesso della madre, ma nel momento in cui la vide, il re divenne furioso e le si rivolse con una asprezza rivoltante. Sarebbe stato abbastanza crudele se lei fosse stata responsabile. Lo fu doppiamente dal momento che era solo una vittima innocente, poi fece allontanare la bambina. La piccola fu pensierosa e triste per giorni. Anna soffriva per lei e provò una repulsione quasi incontrollabile per il re. Il suo ridicolo pregiudizio non solo feriva la sua vittima, ma lo privava dell'unica tra i 70 figli che per bellezza fisica e capacità intellettuale assomigliava all'amatissima Fa Ying. La memoria di Wan era straordinaria e progrediva rapidamente. Aveva imparato a sillabare, a leggere, a scrivere e a tradurre quasi in modo intuitivo. Questo era dovuto in parte alla sua intelligenza e in parte al fatto che anche per lei, come per l'Edison Klim, i libri d'inglese aprivano un nuovo mondo che rappresentava novità e ispirazione. Nei giorni di festa, spesso era l'unica allieva di Anna, desiderosa di non perdere nemmeno un'ora della nuova vita che aveva trovato. Senza dubbio, Maenoi aveva contribuito a tutto ciò, dal momento che si serviva delle ore con la Mem come stimolo per dissuadere il suo piccolo fardello a comparire dove il re potesse vederla. Alla sua insegnante portava doni scelti tra le sue scarse ricchezze, a volte frutta, a volte fiori del giardino, e con questi le offriva un amore che riscaldava il suo cuore. Anche se nello stesso tempo provava una pena ancora maggiore per quella bambina squisita, così ricca di affetto e così poco amata. Un piccolo incidente, curiosamente patetico, dimostrò che Wani si era resa conto perfettamente del disprezzo del padre. Come un'ostrica, aveva attentamente nascosto la sostanza estranea nella perla. In un libro trovarono un versetto della Bibbia: Il Signore punisce colui che ama. Wani lesse il versetto con attenzione. Dopo che ebbe tradotto la frase, guardò Anna con espressione perplessa. Davvero il tuo Dio fa questo? Chiese. Oh Memcha, tutti gli dèi sono così arrabbiati e crudeli. Non hanno compassione nemmeno per i bambini piccoli che li amano. Poi aggiunse con tristezza precoce. Deve essere come mio padre. Lui ci ama, quindi deve essere, Rai, crudele, per insegnarci a temere il male e a evitarlo. C'erano lacrime nei suoi occhi, ma anche una completa accettazione. Poi successe qualcosa. Il cambiamento dapprima fu vago. La principessina andava a scuola come al solito, ma con lei c'era una strana donna. Mai noi non c'era più. Dopo pochi giorni fu evidente che la bambina non era più curata e seguita come prima. Alla fine era così nervosa e magra che Anna fu costretta ad abbandonare l'atteggiamento di apparente disinteresse che aveva adottato per proteggere Wani dalle gelosie dell'harem. Dov'è mai noi, Wani? Le chiese. La bambina scoppiò in lacrime, ma non rispose. Quando Anna chiese alla strana donna che l'aveva portata a scuola, questa si strinse nelle spalle e rispose: Mairu, non so. Confusa e perplessa, Anna rinunciò per il momento a fare domande. Comunque non dovette attendere a lungo una risposta. 3 settimane dopo la scomparsa di Maenoi, Anna, un mattino, entrando a scuola, si rese conto di qualcosa di strano. Erano presenti tutti i giudici donne del palazzo e c'era una gran folla di madri e di figli del re. Sulle scale numerose schiave, vecchie e giovani, stavano accovacciate con i visi nascosti. Anna, che si faceva largo verso il tavolo, si fermò trattenendo il fiato perché davanti a lei il re camminava furiosamente davanti, avanti e indietro. Sul lucido pavimento di marmo, ammanettata e prostrata, c'era la mamma della piccola Wani. La principessa era inginocchiata vicino a lei, con le mani serrate, gli occhi bassi e senza una lacrima, tremante. Anna rimase sbigottita nel vedere come il terrore e il dolore avessero trasformato la bambina. Da quello che riuscì a capire dal fiume di parole furiose del re e dalla scena stessa, perché nessuno osò spiegarle niente, la mamma di Wani aveva giocato ancora e aveva perso le schiave della figlia, l'unica cosa che le era rimasta. Il re strillò l'ordine che frustassero la concubina. 2 amazzoni con pesanti cinghie si fecero avanti per eseguire la sentenza. Il primo colpo, inflitto con selvaggia destrezza, sollevò una vescica sulla schiena della donna. Prima che la frusta potesse colpire ancora, Wani si lanciò in avanti e si buttò sul corpo nudo e tremante di sua madre. Le gettò le braccia al collo e gridò con la voce acuta per il dolore: «Colpisci me, padre! Colpisci me invece!» Nel silenzio mortale che seguì, si alzò il grido di angoscia di Boy, che per la prima volta nella sua breve vita assisteva a un atto di insensata crudeltà. Il suo urlo straziante rimase sospeso nell'aria come le fruste delle Amazzoni. Poi la sua protesta, angosciata e senza parole, fece tremare ogni cuore e si fermò. Lui, spieno di disgusto, seppellì il viso nelle pieghe della gonna di Anna. Per un momento tutto fu immobile. La supplica della bambina siamese e il disgusto del ragazzo inglese echeggiavano nella sala. Silenziosamente tutte invocavano la pietà del re. Per un attimo Anna pensò che la compassione riuscisse ad avere il sopravvento, che l'intelligenza del re non fosse accecata dalla passione. Misurò all'istante il pericolo nella sfida. Lui, l'accusatore, era ora accusato dalla protesta istintiva dei due bambini. Se la frusta fosse caduta di nuovo, avrebbe colpito la sensibilità delle donne ai suoi piedi. Poi la rabbia lo sopraffece. E lui respinse la ragione e la pietà. Con voce rauca ordinò: «Togliete la bambina e legatela!» Ci volle la forza congiunta di due amazzoni e di una terza donna per staccare le braccia di Wani dal collo della madre. Non emise un suono. La buttarono sul pavimento e le legarono mani e piedi. Anna era abbastanza vicina da vederla in faccia. La bambina guardava con calma il mostro che viveva sotto le sembianze di suo padre e tutta la fiducia e l'amore per lui andarono in frantumi. Il suo Dio era morto. Anna, per un attimo, credette di sentire il suono lieve del cuore della bambina che si spezzava. Non ci fu alcun rumore, solo lo sferzare della frusta. Un aspetto della faccenda aveva lasciato Anna perplessa. Se la mamma di Wani aveva giocato, non poteva averlo fatto da sola. Inoltre, se aveva perso le schiave, qualcuno doveva averle vinte, ma solo lei era stata punita. L'unica ragione plausibile era che l'altra persona non poteva essere punita perché occupava una posizione troppo alta nei favori del re. Probabilmente non era una concubina, a meno che fosse la favorita del momento. La possibilità più concreta era che si trattasse di una principessa, forse una sorella o una nipote del re. Nessuno voleva dire ad Anna chi aveva vinto Mai Noi, e questo confermò i sospetti che si trattasse di una gran dama. Tutta la faccenda, a parte la mamma di Wani, era stata tenuta segreta e questo confermava che si trattava di una persona che doveva essere protetta a tutti i costi. Poi, per una felice combinazione, Anna udì un frammento di conversazione, appena poco più del nome di Mai Noi e il nome della principessa nella stessa frase. Si presentò alla principessa e le chiese di Mai Noi. Lei non negò di possedere la schiava. Dopo lunghe discussioni, minacce e suppliche, Anna raggiunse un accordo. Avrebbe comprato Mai Noi quel giorno stesso e l'avrebbe pagata a rate mensili di 10 tical, all'epoca 6 dollari americani. Il debito si sarebbe estinto nell'arco di un anno. La principessa acconsentì a liberare Mai Noi quel giorno stesso e a tenere il debito di Anna. Furono preparati i documenti e Anna li firmò, contenta. Mai Noi adesso era di sua proprietà. Era buffo che lei, che odiava la schiavitù, possedesse una schiava e intendeva continuare a possederla, perché se avesse trasferito i documenti alla piccola Wani, era probabile che Kun Chom Kaeo se la sarebbe di nuovo giocata. Mai Noi fu convocata dalla principessa e consegnata ad Anna. Sollevò le braccia e invocò le benedizioni del cielo sulla donna, le baciò le mani e i piedi appassionatamente e pianse lacrime di gioia. Poi si incamminarono verso la casa di Wani. L'immagine degli occhi pieni di gioia increduli della bambina, della muta fretta con cui si buttò tra le braccia dell'unica persona al mondo sul cui amore poteva contare, rimase con Anna per tutta la vita. 29. L'affaire française. Il 1864 e il 1865 furono anni difficili e incerti in tutto il mondo. Negli Stati Uniti le sorti della guerra civile cambiarono quando nel marzo del 1864 Grant prese il comando dell'esercito nordista. L'esito della guerra non era ancora sicuro e l'assassinio di Lincoln e la lunga miseria della ricostruzione dovevano ancora venire. Nel maggio 1864 Massimiliano e Carlotta arrivarono in un Messico ostile alla Francia. Negli Stati Uniti era molto profondo il risentimento contro Napoleone III. Fino al 1867, quando Massimiliano venne ucciso, si parlava di guerra con la Francia. Si diceva che Napoleone avesse sollecitato l'aiuto dell'Inghilterra nell'eventualità di un conflitto. La Prussia aveva approfittato del coinvolgimento dei francesi in Messico per consolidare la sua posizione nell'Europa centrale con le guerre austro-prussiane e danesi. In Oriente, la Cina appena cominciava a riprendersi dalle atrocità della rivolta del Taiping, che aveva sacrificato milioni di vite e distrutto un incalcolabile patrimonio. Il cinese Gordon, nel giugno 1864, aveva finalmente sciolto l'esercito. A Bangkok tutti questi avvenimenti ebbero forte ripercussione. L'espansionismo francese, in particolare, rappresentava una preoccupazione costante del re. I francesi stavano lavorando alacremente per acquisire colonie prima che gli inglesi assumessero il controllo di ogni nazione debole in Oriente. L'India e la Birmania erano perse, Hong Kong era già britannica e con essa la crema del commercio della Cina meridionale. La Malesia veniva rapidamente assorbita dall'impero, ma rimanevano Annam con il Siam e i suoi tributari. Saigon sembrava un porto promettente per i francesi, che se n'erano appena impadroniti, ma lo sarebbe stato ancora di più se le terre limitrofe fossero state in mano loro. La prossima preda sarebbe stata ovviamente la Cambogia. Che importanza aveva se nel 1856 l'ambasciatore francese che aveva negoziato il trattato col Siam, il signor Charles-Louis-Nicolas Maximilien de Montigny, aveva dichiarato a re Mongkut che l'imperatore riconosceva la sovranità del Siam sulla Cambogia e aveva chiesto il permesso del re a stipulare un trattato commerciale con lo stato vassallo. La Cambogia si trovava a nord di tre nuove province sul Mekong, che i francesi speravano di far diventare un'arteria commerciale in concorrenza con il fiume Pearl che si gettava nel Mar della Cina a Hong Kong. Inoltre, si era verificata una di quelle circostanze che hanno facilitato la strada all'imperialismo. Il re della Cambogia era morto nel 1860, lasciando parecchi figli. Per più di un secolo nessuno aveva pensato di mettere in discussione il diritto del Siam di decidere in merito alla successione. Numerosi re cambogiani erano venuti a Bangkok per l'incoronazione. Era vero che Annam, aggressiva ed espansionista, si era sempre più estesa a sud e a ovest e si era assicurata tributi dalla Cambogia. Ma nemmeno i re di Annam, alcuni dei quali si erano rifugiati essi stessi a Bangkok, avevano messo in discussione il diritto del re del Siam di regolare la successione. Il defunto re della Cambogia aveva passato metà della vita a Bangkok e tutti i suoi figli vi erano cresciuti. Il re Mongkut incoronò il più grande, re Norodom, come successore di suo padre, ma uno dei figli più giovani si ribellò. Quando il re Norodom fu costretto a scappare dalla capitale, i siamesi inviarono una spedizione che sconfisse il pretendente e restaurò sul trono Norodom. Una volta che ebbero deciso di controllare la Cambogia, i francesi usarono l'astuzia e la forza. Illusero Norodom, che avrebbero riconosciuto la sua indipendenza dal Siam e lo avrebbero protetto contro i tentativi di usurpazione dei suoi fratelli. In cambio, chiedevano che si ponesse sotto la loro protezione e garantisse alcuni privilegi commerciali di poco conto. Fu relativamente facile insinuare nella mente di Norodom il sospetto che se avesse rifiutato, gli astuti europei avrebbero appoggiato con il peso delle loro cannoniere e del loro esercito uno dei più disponibili fratelli. Il viceammiraglio Pierre de la Grandière, governatore e comandante in capo della Cochinchina, preparò un trattato segreto che portò con sé quando si recò in visita al re Norodom nel 1863. Con l'aiuto del Monsignor Miche, il trattato fu firmato l'11 agosto. Norodom scrisse immediatamente al re Mongkut: «Ho richiesto un rinvio per poter informare Bangkok, ma non è stato accordato. Se avessi rifiutato di firmare il trattato, sarebbero iniziate le ostilità. Vostra Maestà mi aveva detto che i francesi avrebbero concluso qualsiasi trattato a Bangkok, ma in questa occasione l'ammiraglio della Grandière, comandante in capo della flotta francese a Saigon, mi ha costretto a concludere il trattato in Cambogia. Comunque sono leale come prima a Vostra Maestà e mio desiderio rimanere suo suddito fino alla fine dei miei giorni. I miei sentimenti al riguardo non sono cambiati». I francesi avevano ottenuto un protettorato sulla Cambogia, che invece di rendere Norodom indipendente fece di lui un burattino. Sotto i siamesi era stato libero a patto che adempisse ai suoi obblighi feudali. Sotto i francesi era sempre più limitato. Il trattato specificava che i consoli degli altri paesi non potevano venire accreditati in Cambogia senza il permesso francese. Le merci francesi erano esenti dalle tasse di importazione e di esportazione e il residente francese nella capitale doveva avere il rango di Gran Mandarino. Prima che fosse evidente la portata delle ambizioni e della determinazione francesi, il re Norodom aveva firmato un trattato con il re Moncout. Il 1 dicembre 1863. In realtà nel trattato non c'era molto di nuovo, definiva semplicemente quello che era stato da secoli il rapporto tra la Cambogia e il Siam, affermava semplicemente che la Cambogia è uno stato tributario del Siam e che i governanti cambogiani ricevono per tradizione i loro incarichi da Bangkok. Regolava l'estradizione dei criminali, il pagamento dei tributi e altre questioni relative al commercio e alle procedure di governo. Non sorprende che quando venne pubblicato per la prima volta sullo Straits Times di Singapore, i francesi vi si opposero violentemente. Il signor Obare era arrivato a Bangkok nell'aprile di quell'anno e si diede immediatamente da fare per assicurarsi l'annullamento del trattato. Era irascibile, sgradevole, sgarbato. Uno dei giornali locali scrisse: «A detta di tutti, il signor Obare è per temperamento un uomo molto poco adatto alla posizione che occupa». E il ministro degli esteri francese non poteva essere a conoscenza della mancanza di cortesia e del modo quasi arrogante con cui ha adempiuto le sue funzioni verso il governo del Siam. I consoli francesi e i diplomatici in generale sanno come combinare la sua aviter in modo con la fortiter in re. E se il signor Obare fosse stato preparato al suo incarico nella scuola giurista, sicuramente lo saprebbe fare. L'addestramento di un marinaio non è certamente adatto ad acquisire le qualifiche necessarie a un console. Nel corso di pochi mesi si fece detestare da tutti a Bangkok, ad eccezione di alcuni compatrioti che erano desiderosi quanto lui di vedere la potenza francese estendersi in Asia. Le sue relazioni con il governo siamese furono un lungo seguito di litigi. A volte, quando il re era turbato oltre la norma dalle note aggressive del signor Obare, mandava a chiamare Anna. Dava per scontato che, in quanto inglese, simpatizzasse per lui e odiasse i francesi. Le sussurrava che voleva che parlasse con il signor Thomas George Knox. Aveva troppa paura dei francesi per scrivere direttamente a Londra, anche se segretamente desiderava l'intervento e la protezione degli inglesi. Quando Anna protestava che il signor Knox era un uomo troppo rispettabile per tramare contro un collega, anche se per proteggere gli interessi britannici, Sua Maestà imprecava contro la sua indifferenza. Sapeva meglio di lei che il signor Knox era costantemente coinvolto in qualche intrigo che riguardava sia la politica estera del Siam sia le relazioni interne. Il re non era in rapporti amichevoli con il signor Knox come lo era stato con Sir Robert Schomburg, che si era ritirato l'anno precedente. Non era stata di suo gradimento la nomina di Knox a console britannico. Secondo lui si identificava troppo da vicino con suo fratello, come nel caso del signor Obare e del governo francese, così nel caso del signor Knox e del governo inglese, Moncout non aveva osato spingersi fino a dichiarare che era persona non grata. Aveva scritto una lettera alla regina Vittoria, però, facendo apprezzamenti molto favorevoli su Sir Robert Schomburg, il console uscente. Inoltre, suggeriva, pregheremmo Vostra Maestà se volesse graziosamente indirizzare i suoi ministri a scegliere una persona con il rango e con le stesse buone qualità di Sir Robert Schomburg, da mettere al posto di Sir Robert Schomburg senza ritardi. Preghiamo anche che il nuovo console in Siam sia una persona di intelligenza e pratica dei suoi compiti. Preferiremo una persona inviata direttamente dall'Inghilterra, delle cui qualità e competenze il governo britannico abbia conoscenza diretta. Il governo britannico non aveva ritenuto necessario attenersi a quei suggerimenti e il re si trovò a dover affrontare il lungo contrasto con la Francia senza l'appoggio che avrebbe avuto da Sir Robert Schomburg. La prima preoccupazione di Obare fu di costringere i siamesi a riconoscere apertamente il potere de facto che l'ammiraglio della Grandiera aveva stabilito sulla Cambogia. Provò con argomentazioni, minacce, intimidazioni e alla fine, il 9 aprile 1865, nel porto di Bangkok comparve la mitraglia. Fu l'argomentazione definitiva. Il 14 aprile, sotto la minaccia dei suoi cannoni, il trattato della Cambogia con il Siam venne ufficialmente annullato dal governo siamese. Nello stesso giorno fu firmato un trattato con la Francia in cui il Siam rinunciava ai suoi diritti in Cambogia e accettava di riconoscere il protettorato dei francesi. Il Siam aveva perso la prima di molte regioni a favore della Francia. Riuscì a mantenere la sovranità, anche se non erano molti i residenti stranieri a Bangkok nel 1865 che lo credevano possibile, ma a spese di più di 750.000 chilometri quadrati di territorio. Il signor Obare era esultante. Immediatamente iniziò un'altra battaglia con il governo, questa volta per conto del prete francese, il reverendo John Martin, pastore della chiesa della Concezione di Bangkok. Padre Martin aveva vedute divergenti da un suo parrocchiano, un anziano nobile siamese che si chiamava Pia Wiset. Era un alto ufficiale del dipartimento militare del governo e inoltre era l'uomo più importante tra i cattolici cambogiani di Bangkok. Il signor Obare scrisse al re chiedendo che Sua Maestà revocasse l'incarico a Pia Wiset e lo sostituisse con un ufficiale francese, il signor Lamache, che era sergente istruttore nelle truppe del re e aveva il titolo siamese di Luang Upatet Tuyan. Le ragioni che il signor Obare aveva addotto erano che era noto che Pia Wiset aveva un brutto carattere e che l'imperatore francese sarebbe stato enormemente gratificato dalla promozione del signor Lamache. La petizione terminava suggerendo che la questione venisse definita prima che il console partisse per la Francia all'inizio di settembre. Non era difficile per il re credere che il console e l'imperatore sarebbero stati lieti di vedere un francese occupare un'alta posizione militare in Siam. In tempo di crisi, però, avrebbe potuto essere meno utile a Sua Maestà, il quale non poteva permettersi di affidare a persone di dubbia lealtà posizioni così strategicamente importanti. La richiesta era presuntuosa e il re decise di ignorarla, dal momento che era molto improbabile che il signor Obare decidesse di sostenere una questione di relativa importanza con una cannoniera. Padre Martin e Pia Wiset portarono le loro divergenze in tribunale il 23 agosto 1865. Comparvero davanti a Mom Rachotai nel Tribunale Reale di Giustizia, comunemente conosciuto come Tribunale Internazionale. Il giudice, Mom Rachotai, era un uomo irreprensibile, ammirato universalmente sia dai francesi sia dai siamesi. Era stato ambasciatore dalla regina Vittoria e aveva scritto un resoconto poetico del suo viaggio in Inghilterra enormemente popolare tra i siamesi. Era un principe, nonché cugino del re. Era un tributo alla sua abilità, oltre che alla sua integrità, che nella sua posizione di magistrato più importante del tribunale, che trattava le cause tra europei e siamesi, il suo giudizio fosse ampiamente accettato come corretto e imparziale. Non appena padre Martin e Pia Wiset si incontrarono in aula, iniziarono un litigio rabbioso e rumoroso. Il prete chiamò Pia Wiset un bugiardo e Pia Wiset rispose a tono. Padre Martin si affrettò al consolato francese per fare un esposto sul fatto che Pia Wiset aveva disonorato l'abito che portava con la parola bugiardo e sosteneva che non solo lui ma anche la sua religione erano stati insultati. Era sera quando la questione fu posta davanti al signor Obare, il quale si infiammò immediatamente e scrisse al re una nota in cui esigeva in modo perentorio che Pia Wiset fosse rimosso dall'incarico senza ulteriori indagini. Aggiunse che, se la sua richiesta non fosse stata accolta, avrebbe preso la cosa come un insulto non solo alla cristianità ma anche al governo francese e una rottura del trattato. La nota fu affidata al signor Lamache, che si affrettò a portarla a palazzo. Erano le 2 del mattino quando il signor Lamache arrivò ai cancelli del palazzo, dopo essersi corroborato abbondantemente lungo la strada. Il signor Barelli aveva detto di presentare la nota per sommi capi e come ufficiale al comando delle truppe del re poteva accedere nei penetrali. Da alcuni giorni Sua Maestà si sentiva male, ma quella sera stava un po' meglio e aveva chiamato alcuni sacerdoti buddisti per celebrare speciali servizi religiosi. Il re, irritato dall'improvvisa apparizione poco cerimoniosa del signor Lamache nei suoi appartamenti, chiese di che cosa si trattava, sottolineando l'ora tarda. Il signor Lamache presentò la lettera del console senza una scusa. Dopo averla letta, dichiarò che si sarebbe occupato della faccenda il giorno seguente e che avrebbe ordinato un'inchiesta. «Non è necessaria nessuna inchiesta, Vostra Maestà», replicò il signor Lamache con un'impertinenza che derivava dalla consapevolezza di essere appoggiato dal console francese. «Ho sentito io stesso il linguaggio offensivo che Piahuiset ha usato con padre Martin. Il signor Barré insiste che Piahuiset deve capire che non si può trattare impunemente un suddito francese in questo modo». «Sì», disse il re con impazienza. «Me ne occuperò domani. Può riferire al signor Barré che ho promesso di ordinare un'indagine. Adesso può andare». Il signor Lamache si rifiutò di uscire. Insistette con il re una seconda, una terza, una quarta volta, esigendo con insolenza che il nobile fosse rimosso per ordine del re quella sera stessa. Il re perse la pazienza. Si era controllato solo per la sua paura quasi superstiziosa dei francesi, ma l'affronto del signor Lamache andava al di là di ogni ragione. Era l'ora della cerimonia buddista e Sua Maestà ordinò al signor Lamache di ritirarsi. Questi si erse in tutta la sua altezza e pestò i piedi con fermezza. «Mi rifiuto di andare, Vostra Maestà», ribatté con deliberata impudenza, «finché non garantisce la richiesta in verità ragionevole del signor Aubaret». «Gettatelo fuori!» gridò il re alla guardia accucciata vicino a lui. Con un balzo furono addosso al signor Lamache e lo trascinarono di peso fuori dalla sala, fuori dal cortile, attraverso i cancelli, e lo depositarono nella strada davanti al palazzo. Il francese si rialzò lentamente e si precipitò a fare rapporto al signor Barré. Rabbioso e umiliato, arricchì la sua storia. Disse che il re aveva parlato con mancanza di rispetto non solo del console di Sua Maestà Imperiale, ma dell'imperatore stesso, oltre ad aver insultato oltraggiosamente un messaggero francese. Il re avrebbe voluto rispondere alla nota del signor Barré al mattino seguente, ma stava di nuovo male e rinviò la faccenda. Nel frattempo il signor Barré si scaldava sempre di più, ripensando alla storia del signor Lamache e all'insulto che vedeva nel ritardo del re. Alla fine, incapace di controllarsi più a lungo, scrisse una seconda nota dicendo che nello scacciare Lamache dal palazzo, il re del Siam era stato colpevole di un misfatto politico e aveva rozzamente turbato le relazioni amichevoli tra la Francia e il Siam. Accusò il re di inimicizia verso i francesi e minacciò, in occasione del suo viaggio a Parigi, previsto entro 6 settimane, di sottoporre all'imperatore le implicazioni dell'atteggiamento del re. Aggiunse minacciosamente che durante la sua assenza avrebbe chiesto all'ammiraglio al comando della flotta francese a Saigon di prendere delle misure per proteggere gli interessi francesi in Siam. Invece di scrivere una risposta, il re mandò Mom Raciotai a parlare al console perché, come Anna scrisse di quell'incidente, Sua Maestà sapeva come affrontare il clamore della volgarità e della follia con la tranquillità della saggezza e della dignità. Per il re era evidente che il signor Lamache stava ingigantendo quanto era successo a palazzo e credeva che una spiegazione ragionevole da parte di una delle persone più rispettate di Bangkok avrebbe soddisfatto il console. Mom Raciotai era un uomo sereno, tranquillo, che aveva oltrepassato la mezza età. Si accinse immediatamente al suo difficile incarico. «Vostra Eccellenza», iniziò cortesemente, «Sua Maestà mi ha chiesto di parlarle per spiegare che sfortunatamente lei ha un'idea sbagliata di quanto è successo a palazzo quando il signor Lamache ha presentato la sua nota. È certo che non appena si renderà conto delle circostanze capirà che non poté proseguire». Il console balzò in piedi mentre una rabbia folle gli brillava negli occhi. Si avvicinò al dignitoso giudice siamese e prese le insegne del suo rango che i suoi servi gli avevano messo accanto sul tavolo come era tradizione. Erano tutti doni del re ed erano i beni più preziosi di un ufficiale. Venivano portati a suo seguito da schiavi scelti proprio per quell'incarico. Con deliberazione e malizia, il francese a una gettò le insegne a terra, dalla sua veranda che era più in alto di qualche metro. La scatola di Betel si ruppe davanti agli schiavi del principe che stavano prostrati in attesa del loro padrone. Poi il console si girò verso il giudice, sul cui viso si mescolavano l'orrore e l'incredulità. Prima che i siamesi capissero che cosa aveva in mente il barbaro europeo, il signor Aubaret allungò la mano verso la testa di Mom Raciotai. Per un popolo che considerava la testa sacra e intoccabile, il gesto era di per sé insultante, Ma il signor Ubaré non si fermò. Afferrò il principe per i capelli e con tutta la forza sollevò il piccolo siamese e lo buttò giù dalle scale, facendolo rotolare dietro le sue insegne. Per 75 anni quell'incredibile, impensabile, insopportabile insulto per la nazione del Siam bruciò nelle menti siamesi e tenne vivo l'odio per i francesi. Il signor Barré partì per la Francia quasi immediatamente, dopo che se ne fu andato, per sempre, come tutti speravano, il Recorder di Bangkok scrisse: «È evidente da quanto è emerso sin dal suo arrivo che il signor Barré non è l'uomo adatto a vivere tra i siamesi e dubitiamo che sarebbe la persona adatta a qualsiasi altro luogo. Se rientrasse in Siam, dovrebbe ritornare con una forza sufficiente a far diventare virtualmente il Siam una provincia francese e lui l'uomo che la comanda». La maggior parte degli europei di Bangkok, come del resto molti siamesi, erano convinti che quello fosse esattamente ciò che voleva fare. Potevano solo sperare che il suo padrone imperiale fosse troppo impegnato in Europa e in Messico per renderlo possibile.